La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю я. Quello che avete ascoltato è il pianto di Martina, appena venuta al mondo e subito ha capito dove è capitata, infatti piange come tutti i bambini, ed è la figlia di Chiappini, di Alessandro Chiappini. Per come è fatto Alessandro, io me la immagino nata come nella prima scena di Miracolo a Milano di De Sica, che c'è questo grande campo di cavoli, una vecchina da fiaba che arriva e sente questo vagito e sotto un cavolo scopre un bambino. Questo bambino è Totò, che sarà poi il protagonista del film, l'uomo più buono del mondo, che quando viene derubato da un ladro che gli strappa l'unico suo avere, che è la borsetta dove dentro c'ha un mezzo pigiama, uno spazzolino da denti, soldi niente. Quando si riprende la sua valigetta, vede il ladro così dispiaciuto, ma così profondamente innamorato dell'oggetto che glielo ridà. Ecco, un po', se devo guardare gli occhi di Chiappini, io vedo Totò. Auguri Alessandro, auguri Marilena, che è la mamma, e auguri soprattutto ad Arianna, la bambina più grande, perché sempre per un fratello o sorella maggiore, quando nasce questo estraneo, quando arriva questo piccolo estraneo al quale si danno tutte le cure, è sempre un brutto momento. Io mi ricordo quando è nato mio figlio più piccolo, la sorella per un par d'anni l'ha chiamato l'intruso. L'ultima volta avevo detto che avrei risposto a tutte le lettere che erano arrivate, non ce l'ho fatta, nel senso che sono troppe e non basta una puntata. Mi scuso con Titti, Selene, Walter, Katie, Simonetta Tunesi, Laura Guidotti, Zero Sensi di Colpa. I signori saranno serviti nelle prossime puntate. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, sono un uomo di 54 anni, dal carattere difficile e che ha avuto una vita affettiva costellata più di sofferenze che di gioie fin da piccolo. 6 anni fa conosco un ragazzo, anzi un uomo, Marco, di pochi anni più giovane. Mi piace molto, è coinvolgente e passionale e capisco subito che la componente erotica la fa da padrona. Ma per me il sesso con lui, con le sue carezze e i suoi baci lungo tutto il corpo, è una cosa quasi inedita, comunque rara. Era un uomo semplice, di poca cultura e molto affettuoso. Questa crescente passione, però, tiene in secondo piano tutto quello che lui è fuori dal letto e dagli abbracci. Mi riempiva di regali, ma non accettava niente da me. Per lui il dono era a senso unico. Ti dico solo ora che Marco, in realtà, aveva un'altra relazione da 18 anni con un uomo di 25 anni più vecchio di lui, a cui, secondo me, ne faceva di tutti i colori. Io accettavo lo stesso questa situazione. Mi dava così tanto che non importava se c'era qualcun altro. Quello che mi dai mi basta, gli dicevo. Poco dopo però ha cominciato a dare segni di squilibrio, come ad esempio dire all'ultimo momento che non sarebbe venuto. Diceva che gli venivano attacchi di ansia e che stava troppo male. Si sentiva in colpa. Appena passato il senso di colpa però voleva me. E via con questa altalena lacerante. Ha tentato più volte di lasciare l'altro, che non lo amava più, ma ogni volta tornava da lui e si giustificava con me dicendo che gli sembrava di abbandonare suo padre. Intanto tutto questo tira e molla diventa per me destabilizzante. Cerco di tenere duro con la speranza che lui capisca e che soprattutto normalizzi il suo rapporto col partner sui binari di un'amicizia. Ma niente da fare. Intanto so che lui va anche in cerca di altri amanti o addirittura mantiene contatti con le vecchie fiamme. Buone per momenti di magra, come diceva lui. Il fatto è che io ogni volta lo perdonavo. Quando ero vicino a Marco e stavamo insieme, io mi sentivo a casa. Tutto questo fino a 2 anni fa, quando dopo mesi e mesi di sua assenza non rispondo ai suoi auguri di Natale, via SMS ovviamente, il mezzo dei codardi. Tu penserai, Barbara, che più che una storia d'amore sembra un incontro di patologie, e forse lo è. Conduco la mia vita normalmente, anche con tante emozioni e nuove conoscenze. Però non passa giorno che io non lo pensi. Non ci sto più male, ma non posso non pensarlo. Ho fatto altri tentativi di relazioni, o anche solo di sesso, poche. Ma non sono mai riuscito a trovare qualcuno che mi interessi veramente. Sono rimasto come pietrificato dall'amore e nell'amore. Ma si può tornare ad essere uomini dopo essere stati pietrificati? E per giunta ad un'età come la mia? Luca. Ma senti Luca, io rispondo da tanto tempo alle lettere d'amore e non credo di aver mai dato una risposta utile. Credo che ben pochi abbiano seguito i miei consigli, perché chi mi scrive come te non si aspetta che gli risolva la vita. Vuole soltanto un orecchio amichevole perché sconosciuto, un orecchio nella notte per raccontare i suoi dolori. Vuole una spalla immaginaria sulla quale abbandonarsi, infatti abbandonati, tanto non sarà giudicato. È un momento di intimità fra viandanti ed è quello che ti offro. Ti offro la mia compassione. Ho staccato apposta la parola, ovvero patire con, meglio ancora, sentire insieme. Non nel senso offensivo, oggi se dici compassione, mi fai compassione, si usa ormai come insulto, tanto è un mondo spietato. E invece è una delle cose più dolci che siano date all'uomo. Io non lo so se a 54 anni ci si può ancora innamorare e rivivere. Purtroppo non è mica una regola matematica. Però so che c'è gente che ha ricominciato, che aveva quasi il doppio dei tuoi anni. E so quello che dico, perché penso alla mamma di una mia amica, di cui un giorno spero parleremo, Lisetta Carmi. La mamma di Lisetta Carmi ha cambiato vita completamente a 89 anni, quando è morto suo marito. Un marito amatissimo, che la trattava come una bambina. E tutti pensavano che morisse anche lei, perché ormai a quell'età tanto erano stati una cosa sola. E lei è uscita da sola, credo per la prima volta, dopo 60 anni, è andata all'anagrafe. E lì ha scoperto la vita, ha scoperto la libertà. E sono venute fuori delle attitudini artistiche sopite. Per esempio ha scoperto che era bravissima a comporre quadri coi fiori secchi. E è diventata un campione di scopone scientifico. E a 90 anni ha lasciato la sua casa piena di libri e di oggetti preziosi di coltissima dama ebrea a Genova e si è trasferita in un trullo, in Puglia, nudo, assieme alla figlia. Ed è vissuta fino a 99 anni entusiasta della piega del suo destino. Oh, scusa se ho divagato, ma mi ha appassionato l'intensità della tua storia, il dolore, la forza di questo amore, la tua testardaggine, un amore poi da parte di entrambi. Perché anche lui, contro se stesso, contro tutte le sue ambiguità, non poteva fare a meno di te. Io non lo so se tu riuscirai a uscire dal passato come la signora Carmi. Io credo soltanto che ti sbagli quando dici che sei pietrificato. Non sei pietrificato, sei solo rimasto in questa cattedrale solenne del tuo dolore. Come un personaggio di Chekhov, porti il lutto di te stesso, vivi nella cripta. Ma io penso che prima o poi ne esci e trovi qualcuno che ti fa ridere. Perché uno che sa amare come te, mica si trova tutti i giorni. Perché penso questo? Non lo so, ma la mia sensibilità da Vanna Marchi mi dice che questa lettera è un rito propiziatorio per cominciare a uscire dalla tomba. Pian pianino e a tirar fuori la testa come una lumaca, intanto con una letterina. Hai scritto questo piccolo poema sull'amore e adesso manca soltanto una cosa, trovargli un corpo, un viso, uno sguardo. La guardiana del faro. Ricevo un'email da Giovanni Bassetti che mi scrive: voglio sapere da lei se ha letto Il Tideiano, che è un giornale che scrive lui, che le ho lanciato nel finestrino di una macchina, evidentemente il 30 giugno. Sono il bardo Giovanni Alba Protosimbolica Bassetti, molto seducente come pseudonimo. L'ha letto. Spero che il Tideiano le abbia trasmesso almeno un guizzo di luce della mia anima. Grazie Giovanni, avrei voluto essere illuminata, ma io devo dirle che l'ho perso subito insieme ad un altro pacco di cose che avevo, tra cui una cartella di appunti per me molto preziosi. Però senta, la invidio. Io scrivo mari di cose. Avessi mai chiesto a qualcuno se l'aveva letto? Io aspetto come lo dicano loro. Lei ha veramente una fede in quello che fa ammirevole. Ancora uno strascico sulle guardiane del faro che abbiamo dedicato all'intervista della escort barese Terry De Nicolò. Questo è Enrico Salvato che scrive da Gemonio in provincia di Varese e dice: sono un musicista 43enne, insegno e suono il pianoforte con entusiasmo. Nel mio ambiente fare una marchetta equivale a proporre una musica nella quale non si creda. Condivido il tuo commento alla Lectio Magistralis di Terry De Nicolò, ma una preghiera: insisti su ciò che davvero conta. L'aforisma che hai citato, mezza umanità fa schifo, l'altra metà la ammira. Beh, sarà contento Umberto Silva, che è l'autore di questo aforisma. Ecco, dice Enrico, ciò che più mi preoccupa è l'idea che il terride Nicolò pensiero possa piacere. Questa teoria della legge del più forte, che poi è quello che ha fatto i soldi, è rivoltante. Se guadagni 2000 euro al mese, sei uno sfigato. Aggiungo, parentesi graffa, che magari, appunto, moltissimi sarebbero felicissimi di guadagnarli. Magari scoppi di salute, sei sereno, hai un sacco di amici, un lavoro che ti appassiona. Magari sei pure innamorato e corrisposto. No, signore. Se non ne guadagni 20.000, sei uno sfigato. 20.000 al mese. Come? Non importa. E allora sì, sarai un leone. Poiché i soldi sono tutto, è naturale. Sono ciò che misura il tuo valore. Quanti più ne fai, tanto più vali. Come diceva l'astrologo ortolano Robert, sparito il valore, rimane il prezzo. E ora che l'hai capito, se, continua Enrico, puoi serenamente venderti tua madre. Anzi, dovresti. O preferisci essere uno sfigato anche tu? Il denaro è il solo Dio che la società riesce davvero a farci adorare. Ma è un Dio devastante, come tutti gli altri. Grazie Enrico soprattutto per questa bella osservazione che tutti gli dèi sono devastanti, soprattutto quelli delle religioni monoteistiche, espressione sempre di un ego insostenibile. E poi grazie ad Andrea Ravenni per delle cose personali che scrive, che comunque le ho gradite molto, grazie. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Ciao Barbara, la mia storia d'amore è finita. E la mia ex compagna non si rassegna ad una fine a cui entrambe siamo giunti dopo 6 anni di relazione. Mi rendo conto che per l'età, io 40, lei 39, per una donna non sia facile, soprattutto se si infrange il sogno di farsi una famiglia, dei figli e di un amore eterno. Finita la storia, a giugno ho cercato di chiudere i battenti del mio cuore che doveva riprendersi. Non ho più mandato sms, mail, telefonate, alcunché che tenesse viva la ferita. Ma lei invece? Tutto il contrario. Doveva sapere, pretendere e soprattutto avere risposte senza darmi possibilità di vivere a modo mio la scelta intrapresa insieme di dividerci. Oggi ha voluto che le dicessi al telefono se non l'amavo più davvero e l'ho fatto, innescando nuovi turbini di pensieri, parole che ho paura la portino all'autoflagellazione. Non so che fare. Entrambi abbiamo vissuto la relazione, ma la decisione l'ho presa io dopo varie vicissitudini. Ora, dopo un po', voglio solo pensare alla mia serenità. E grazie ai miei interessi, la solitudine non mi spaventa. Non so come aiutarla per farle capire che non può pretendere da me di lavorare alla riscoperta di una serenità d'animo che le permetterà di riavere accanto in futuro un uomo capace di comprendere e superare la nostra rottura. Cesare. Credo, Cesare, che sia una grande illusione poter essere insieme la malattia e il farmaco. Non si può. Quando si lascia qualcuno, se non si ha delle carogne, ci si sente comunque colpevoli. Per qualcosa che non dipende da noi. Perché si causa dolore, ma anche si soffre. Mica l'hai fatto apposta. Se fosse stato per te, avresti continuato ad amarla. Ma continuare sta via crucis tutti i giorni non fa che peggiorare le cose. Chi ama ancora si illude insistendo, scavando in questa miniera morta di ritrovare un'ultima pepita e di risuscitare ciò che non è più. Ma è una miniera esaurita, sta scavando una tomba. Di fatto lei ti sta torturando, si prende questa rivincita. Non ha più il tuo amore? Beh, avrà che ti rompe le palle, che ti si para davanti tutti i minuti come un fantasma, come un rimorso. E tu glielo lasci fare. Ma più lo fai e peggio è, perché è un risarcimento impossibile. In verità la stai legittimando nella strada della nevrosi. Voi state continuando ad avere una relazione malata che fa malissimo a tutti e due. C'è una cosa che diciamo sempre dal faro: gli amanti dovrebbero imparare che quando è finita è finita, e se mai dovesse risorgere non sarà con questa scarnificazione quotidiana. Senti Gloria, parlo con Gloria Guerrera, mi senti? Qui ci vuole Andreadi. Ci vuole la sua poesia che, canto di lieti esequie, sul lasciarsi, l'abbiamo letta 3 volte, ma io vedo che non basta mai. Ormai la dovremmo usare come esorcismo, la dovremmo mettere all'inizio della trasmissione. Quindi, Cesare, ti prego di trasmetterla alla tua fidanzata, però anche a te stesso, perché è per tutti e due. Ciò che trascorre si fa brutto. Nemmeno la tristezza è bella, si è spenta. Da lungo tempo odio il passato. E dico i piagnoni, beato chi seppellisce con lietezza. Cessare è l'ordine della gioia. e trasmutarsi in nuove forme. E senza fine vengono le gioie. Tutto ciò che è vergine fresca. Lascia la zitella dei ricordi e libero e lieto afferra il presente. Chi non è oggi non è mai stato. Ricordare è un peso da schiavi. L'uomo libero dimentica e se ne va, eppure la donna libera. Io credo, caro Cesare, che l'ultima cosa che puoi fare per la tua appiccicosissima ragazza è di fargliela imparare a memoria, perché parla della bellezza della fine. Per quanto faccia male, è una rinascita. Cara Barbara, la nostra storia di 6 anni e mezzo è finita circa un anno fa, per sua volontà. Ci sentiamo, vediamo almeno un paio di volte al mese, in quanto, oltre ad essere amanti, eravamo e siamo amici. A distanza di un anno ci sono ancora dei giorni, specialmente quando la risento, la rivedo, in cui non riesco a rassegnarmi. Lei è stata la mia unica donna. Io e lei siamo dei perfezionisti patologici. Lei è la personificazione dell'orgoglio in terra. Io per lei ho mandato al diavolo tutto il mio orgoglio. Siamo entrambi ancora soli, anche se lei ha un amore che si può chiamare impossibile. Ad un passo da essere consumato, ma mai consumato, che risale a prima della nostra storia. Io non riesco a capire bene se ciò che mi fa veramente star male è la sua mancanza oppure l'idea di aver fallito come amante e quindi rivederla mi ricorda tale fallimento. Capisco che ti chiedo una cosa piuttosto difficile, ma, cara Barbara, riesci a vedere qualcosa in più di me o a suggerirmi cosa fare per capire meglio la fonte del mio malessere? Saluti, Fabrizio. La tua lettera, Fabrizio, è speculare a quella di Cesare. Qui il lasciato sei tu, quello che è rimasto intrappolato nell'immaginario di un amore che però non è immaginario. E ti domandi perché ci sto male, sarà che ho fallito come amante o che lei mi manca. Senti, una delle più disperanti attività umane è poi stare a pensare e a ripensare, a confezionare tutti questi vestitini di parole che sono fatti d'aria come il vestito nuovo dell'imperatore. Ma scusa, ma perché ci stai male? Ma me lo chiedi? Perché sei ancora innamorato pazzo? E lei no. Guarda che è facile. La fonte del tuo malessere è che lei non ti vuole più. Ti vuole bene, ti tiene ancora legato, si nutre del tuo dolore e ti tormenta pure con quell'amore non consumato, perché magari ci avesse un amante, no? C'è uno che un giorno che ancora c'è tutto ma non c'è niente, che tra l'altro la cosa più crudele da dire a un innamorato respinto è di fargli penzolare in testa la spada di Damocle di un amore che da un momento all'altro si potrebbe realizzare. Ma vorresti pure stare bene, scusa, stai in una situazione orribile. Non siete né morti né vivi. Siete come in una commedia di Vickiewicz, di cui non ricordo il titolo, ma mi ricordo che ci sono due sposi che non riescono a lasciarsi, perché sono uniti attraverso il petto da una striscia di caucciù, invisibile che però si allunga all'infinito, tenendoli uniti. Uno va al polo, l'altro va in Argentina, è uguale. Anche se scappano l'uno dall'altro, dalle sponde opposte del mondo, c'è questa cosa di gomma che li unisce. Questa tua ragazza fa un gioco perverso e tu ci stai per morto. Tu stai in questo momento nel territorio più pericoloso dell'amore, quando tutto è stretto in un recinto e non puoi né scalciare né fuggire e nemmeno lo vuoi, e neanche lei. Tutti e due siete nel territorio della nostalgia. Guarda, sempre bisogna ricorrere ai poeti. Adesso ti dedico una canzone di Serge Reggiani che si chiama Madame Nostalgie, Madame Nostalgia. Ti dico alcune delle parole di questa canzone che puoi sentire in francese. Madame Nostalgia, tu parli, parli. Madame Nostalgia, tu chiacchieri, chiacchieri, chiacchieri, chiacchieri della fragilità delle rose. E io non riesco più a sentire cosa dici. È uno che è stufo. Si capisce che è uno che si è dato per chissà quanto tempo a questa nostalgia. È il momento in cui sta rinascendo. Madame Nostalgia, tu sogni, sogni, sogni, sogni. Ma i tuoi alberi non hanno più linfa. I tuoi rami non hanno più frutti. Madame Nostalgia, perdonami se non ne posso più, dei tuoi merletti grigi e neri, è troppo triste da queste parti. Madame Nostalgia, tu piangi, piangi, piangi, piangi, ma questa sera non ho più cuore di condividere le tue insonnie. Madame, io questa sera ho voglia di esserti infedele tra le braccia di una bella che rassomiglia alla vita. Madame Nostalgie, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, mais ce soir je n'ai plus le cœur de partager tes insomnies. Madame, j'ai envie ce soir d'être infidèle dans les bras d'une belle qui ressemble à la vie. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка. Как сладко ты. Сери фа, ho visto una replica di un'intervista a Don Ciotti trasmessa da Rai News 24, uno spazio che si differenzia da quasi tutto il resto della Rai. La libertà di Rai News fa onore a questo grosso carrozzone venduto e morente, è proprio le fleur du mal, proprio il fiore in cima alla monnezza. E Don Ciotti parlava della disumanizzazione dell'Italia, dell'educazione alla sopraffazione, al razzismo, al classismo, fin da piccoli, del fatto che la mostruosità è diventata normalità, del fatto che generazioni di bambini vengono educati alla prepotenza, al cinismo, di cui poi saranno a loro volta vittime. Quando non riconosciamo il prossimo non riconoscerà noi. Si legittima e si propaganda tutto il contrario di quello che è la civiltà. Per arrivare al rispetto ci vogliono millenni, per dimenticarselo basta qualche anno, per dimenticarsi che non ci si salva da soli, che l'egoismo come programma è un suicidio. Il razzismo poi fa passi da leone, specie verso gli africani. Diceva Don Ciotti, ci pare normale che muoiano sul mare, che arrivino cadaveri. Parlava di come si era sentito lui davanti a queste tre bare di ragazzi. Qualche ministro di queste morti si è apertamente rallegrato, perché sono nemici. E come si diceva dei Pelle Rossa durante l'invasione, quando sono stati poi sopraffatti dagli europei, e anche come si diceva dei neri africani durante lo schiavismo, l'unico emigrante buono è un emigrante morto. Gli africani sono sempre morti in mare. Tutto il cosiddetto mondo civile, per potenziare il suo sviluppo, ha rubato incessantemente uomini dall'Africa. Prima morivano migliaia durante la traversata sulle navi schiaviste. E adesso, come sappiamo, un capitano inglese che faceva questo commercio scrive nelle sue memorie che era più economico farli viaggiare in queste condizioni subumane, lasciarli senza acqua e senza cibo, tanto ce n'erano tanti. E così sopravvivevano i più forti, quelli che si vendevano meglio. E questo passato tenebroso sta ridiventando presente. È il mercato bellezza, come ha detto la professoressa Terry De Nicolò, escort barese, quando dice che bisogna camminare su più cadaveri possibile per fare affari e vendere la madre. E dice, è il mercato. Cose che sembravano relegate al razzismo del sud degli Stati Uniti di mezzo secolo fa, stanno ridiventando Italia, oggi. Mi sono messa a rileggere i poeti afroamericani di quel grande movimento artistico che si chiamava la Rinascenza di Harlem, nato a New York negli anni 20, Rinascimento, Rinascenza, insomma, come volete, e dal quale nacquero musica, poesia, letteratura, pittura. Leggeremo poesie di Langston Hughes e di altri. Prima però vorrei parlare con un vivo, vorrei parlare con Jenny, Genevieve Macaping, la mia amica del Camerun che vive in Italia ormai da 30 anni e che già altre volte ci ha fatto il grande piacere di venire a parlare alla Guardiana del Faro. Per chi non l'avesse mai sentita e non avesse letto i suoi libri, brevemente. Jenny, nel suo villaggio in Camerun, conosce un francese che la affascina, ha gli occhi blu e lei gli chiede «Ma tu vedi tutto blu?» ed è il primo uomo bianco che lei vede. Si innamorano, sono ragazzi tutti e due, scappano insieme, scappando attraverso il sud dell'Africa, perché la famiglia di lei li cerca al nord, lei è minorenne, sono ricercati, riescono ad arrivare in Francia, stanno per sposarsi, ma lui muore nell'incendio della roulotte. Genevieve si trova sola, senza documenti, lontanissima da casa. E da qui facciamo un salto, la troviamo laureata in antropologia, insegnante all'Università di Calabria. Scrive un libro meravigliosamente scritto, Traiettorie di sguardi, pubblicato da Rubbettino, dove racconta con ironia, con dolore, con infinita intelligenza del razzismo che già allora, perché un libro di 20 anni fa, appariva in Italia e ha fatto numerose apparizioni in televisione, ma poi non più. I neri vanno sempre meno di moda. Non è Parigi degli anni 30. Jenny ha un senso dell'umorismo e un coraggio da grande combattente. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, l'antropologa e giornalista Genevieve Macaping è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Ehi Jenny, intanto ci dici una puntata della tua vita, l'ultima, perché ti abbiamo lasciato appunto quando te ne stavi andando dalla Calabria, che avevi perso il lavoro all'università. E adesso dove sei? Che fai? Adesso sono a Mantova, sono in provincia di Mantova, accolta amoroso, con grandissimo amore dalla mia famiglia mantovana bianca che ho conosciuto 32 anni fa. Sono andata via dalla Calabria perché la Calabria, così come altre terre, sei sempre pronta ad abortire i propri figli, è toccato anche a me di andare via, ma andare via non è necessariamente morire, significa anche rinascere ad altro, e sono qui per rinascere. Insomma, ho lasciato Terogna e adesso sono in Polentogna, ecco. Senti Jenny, cosa pensi dell'intervista di Don Ciotti che abbiamo citato prima? Il punto è questo, cara signora Del Faro, che avere il colore della pelle nera sembra veramente una maledizione per sempre, insomma. Invece, pensandoci bene, non è così, perché è semplicemente l'esercizio del potere. E quei negri vanno via, ma una cosa è certa, che continueranno ad andare via. Loro continueranno a partire sempre, e si tenga ben forte, perché è solo un inizio. Vanno via ben sapendo anche di non poter arrivare, perché sanno bene che c'è il deserto da attraversare, sanno bene che c'è il mare da attraversare, e vanno via con i loro uomini, le loro donne, i loro bambini, vanno via, e quei corpi li ritroviamo sotto il mare nostro, il mare nostrum. State tranquilli, loro continueranno ad arrivare, le loro terre sono state mangiate, conquistate, sono state, e tuttora, andate a vedere in Africa con le sue miniere di diamante, di oro, di bauxite, delle sue foreste, del suo bel legno, di tutto, ma di grazia, le vostre tavole, i vostri armadi, le vostre grandissime tavole da conferenza in Occidente, con che cosa è fatta? Non della legna africana, ma della pelle africana. Senti, venendo al tuo fatto personale, tu adesso sei senza lavoro, appunto grazie anche alla riforma Gelmini, a quanto ho capito. Certo, grazie alla riforma Gelmini, però una cosa la voglio dire, e non voglio peccare di modestia. Io l'anno accademico scorso ho accettato di fare lezione gratuita all'Università della Calabria ai giovani calabresi, andando all'università a piedi. Altro che Africa, in Africa si cammina per 30-40 chilometri per andare a scuola. Io in Calabria ho camminato 12 chilometri perché non avevo soldi per mettere benzina della macchina, e siccome credo che avere accesso alla conoscenza sia un diritto, perché ritengo che giovani di tutto il mondo, di tutte le nazioni, abbiano il diritto di accedere alla conoscenza. Prima di leggere le poesie di Langston Hughes e Frank Horn, che parteciparono attivamente al Rinascimento di Harlem, invece vorrei leggere Carl Shapiro, nato a Baltimora nel 1913, che a 29 anni vinse il premio Pulitzer per la poesia. Lui non era un afroamericano. La poesia si intitola Università, maltrattare il negro ed evitare l'ebreo. Questo è il programma. A metà settembre i ragazzi nuovi, riconoscibili dai cappelli, vagano in un labirinto di manierati mattoni. Gli eguali si stringono la mano, i diversi passano ignorati. Il tempo esemplare bisbiglia calma, calma. E i visitatori s'allontanano in punta di piedi per il crudo settentrione, per l'Occidente incompiuto, mentre i giovani, scoprendovi un tornaconto, studiano l'espressione del viso. Dove, sulle loro separate colline, le università, simili a manieri d'una legge più antica, guardano le scarpate d'una terra feudale. I decani, zitelle rinsecchite sulla targa di famiglia, fanno risuonare il nome inglese come una moneta, assecondano il vanesio e allettano lo zotico. Entro i recinti di questo mondo, la prosopopea è una setta. Ed eccoci a Langston Hughes, nato nel 1902 nel Missouri. Questo poeta afroamericano ha avuto una vita molto varia, molto interessante. Ha viaggiato per tutta l'America, ha viaggiato in Europa, ha fatto tutti i mestieri, ha studiato all'università, ma ha anche fatto tutti i mestieri. E la leggenda vuole che sia stato scoperto da un altro poeta americano bianco, Bechel Lindsay. E pare che quando lui faceva il cameriere sia andato a mangiare nel suo ristorante Bechel Lindsay, e lui gli abbia fatto scivolare verso il piatto le sue poesie, e da lì fu un suo grande mentore. Insomma, veniamo alle poesie. Quelle che io leggo adesso sono tutte scritte quando lui era molto giovane. sia Langston Hughes e sia Frank Horn compongono molto sui ritmi del blues, sui ritmi della musica afroamericana. Langston Hughes suonava e cantava anche, suonava e cantava il blues. E questo si rifà alle sue esperienze di cameriere d'albergo. Si intitola Sputacchiere d'ottone. Pulisci le sputacchiere, ragazzo. Detroit, Chicago, Atlantic City, Palm Beach. Pulisci le sputacchiere. Il vapore nelle cucine degli alberghi. E il viscidume nelle sputacchiere degli alberghi. Parte della mia vita. Ehi, ragazzo, un nickel, un decino, un dollaro, $2 al giorno. Ehi, ragazzo, un nickel, un decino, un dollaro, $2. Acquistano le scarpe per il piccino. Affitto di casa da pagare. Ginepro la vigilia. In chiesa la domenica. Mio Dio. Piccini e ginepro e chiesa e donne e domenica. Tutto mescolato con decini e dollari e sputacchiere pulite e affitto di casa da pagare. Ehi, ragazzo! Una bella tazza d'ottone. È bella per il signore. Lucido ottone, pulito come i cembali dei danzatori di Davide, come le coppe di Salomone. Ehi, ragazzo! Una sputacchiera pulita sull'altare del signore. Una bella sputacchiera lucente appena lucidata. Quella almeno la posso offrire. Vieni qui, ragazzo. Questa poesia è sempre di Langston Hughes e si intitola Sterratori nella Florida. Sto costruendo una strada per le automobili che ci volino sopra. Costruendo una strada attraverso il folto di palmizi che la luce e il progresso vi corrano sopra. Costruendo una strada per i bianchi ricchi e vecchi che ci passino sopra con le loro grosse vetture e mi lasciano qui come un palo. Certo, una strada è utile a tutti, i bianchi in automobile. E io ho il vantaggio di vederli passare. Non ho mai visto nessuno correre così bene prima d'ora. Ehi, amico, guarda qua. Sto costruendo una strada. Questa è la più famosa di Langston Hughes. E tra le più belle, secondo me. E si intitola I, tu, anch'io. Anch'io canto l'America. Io sono il fratello più scuro. Mi mandano a mangiare in cucina quando viene gente. Ma io rido. E mangio bene e divento forte. Domani siederò a tavola quando verrà gente. Nessuno sarà a dirmi mangia in cucina allora. E poi vedranno la mia bellezza e ne avranno vergogna. Anch'io sono l'America. La guardiana del faro. Questa poesia di Frank Horn, che è un poeta afroamericano nato a Brooklyn nel 1899 e morto nel 1974, che fu insegnante universitario e grande attivista dei diritti dei neri americani, si intitola Nigger, è la parola spregiativa che sarebbe negraccio proprio, e che è tradotto in italiano negro, ed è tristissimo dirsi, ma ecco questo Nigger. Il negro che noi usiamo oggi equivale al nigger, cioè già in sé ha un significato spregiativo. È bellissima in originale, comunque abbastanza ben tradotta da Carlo Izzo, perché beh, lì si sente proprio la cantilena, nigger nigger never die, e infatti si intitola Cantilena per bambini. Ragazzetto negro, inseguito lungo la strada, negro negro muori mai, faccia nera e occhio lucente, negro negro negro. E lui pensa ai suoi antenati, Annibale. Annibale scese a precipizio dalle Alpi, le suonò agli orgogliosi romani, tornò a casa con i loro scalpi, negro, negro, negro. Otello, uomo nero, possente in guerra, dette ascolto a Iago, chiamò sua moglie puttana, negro, negro, negro. Crispus Attax, questo è un eroe mulatto, fucilato come ribelle nella rivoluzione americana nel 1770, ucciso dai soldati britannici durante il massacro di Boston, ed è celebrato tra gli eroi appunto della rivoluzione americana. Crispus Attox, pallottole nel petto, sangue rosso della libertà, giù lungo il panciotto, negro, negro, negro. Toussaint. Toussaint fece scappare i francesi, combatté come un demonio, liberò il suo popolo. Negro, negro, negro. Gesù. Gesù, figlio del Signore, sputateli in faccia, inchiodatelo su un asse, negro, negro, negro. Ragazzetto nero corre lungo la strada. Negro, negro, muori mai, faccia nera, occhio lucente, negro, negro, negro. Ecco, non volevo interrompermi nella lettura, per la seconda volta Toussaint di cui parla è Toussaint Louverture, che è l'eroe dell'indipendenza haitiana, che poi morì in Francia in una prigionia durissima. Ecco, perfetto. Robert de Sellou arriva sempre quando mi viene un po' di fame. Ciao Robert, hai portato da mangiare? Oggi c'ho i kiwi, Barbara, ti piacciono? No, però dammeli lo stesso, ti ringrazio. Senti Robert, ho saputo che è successa una rivoluzione nel villaggio di Finisterre, sì. Perché vengono tutti nel tuo negozio di frutteria non più a comprare la frutta. Non compra più niente nessuno, chiedono solo l'oroscopo. Cioè che arrivano e dicono io sono toro, mi dica, ho le corna. Ho le corna, non ce l'ho, mi ama, non mi ama, troverò lavoro. È un macello, Barbara, mai cambiato la vita. In peggio. In peggio, in peggio. Magari comprassero no. Oltre che chiedere l'oroscopo. Te la sei cambiata a te, scusa, perché sei venuto tu a fare il grillo parlante astrologico. A me dispiace molto, comunque faccio un appello, ma tanto non ci sentono a Finisterre, no, forse col computer ci sentono. Io vorrei fare un appello di andare a comprare ogni tanto qualche chilo di mele, di patate, anche per salvare la faccia. Voglio dire, perché molti, devo dire, negozianti hanno questa funzione di padri, confessori, di però quando però, uno poi è astrologo... Basterebbe anche comprare un chilo di mele, oltre a chiedermi il transito. Sì, ma e tu che fai? Io leggo, guardo e dico. Senti, non perdiamo tempo in chiacchiere. Va bene. Ecco Robert de Sellou, ci parla di astri. A proposito del rinascimento di Harlem, mi piacerebbe parlarti un po' oggi di astrologia storica. L'astrologia storica è quella che guarda il transito dei pianeti lenti, dei pianeti più lontani del Sistema Solare, che hanno dei moti orbitali lunghissimi in grado di marcare interi periodi storici con il loro movimento e che incidono su tutto il sistema della società. Il rinascimento di Harlem mi ha fatto pensare immediatamente agli allineamenti di Urano e di Plutone nel corso del Novecento. Urano è associato al concetto di rivoluzione e Plutone è associato alle componenti più nascoste e meno visibili della società, quelle che stanno ai margini. Questi due pianeti nel Novecento hanno avuto due principali cicli di allineamento, uno negli anni 20 e un altro più lungo negli anni 60, terminato nel 1972. Poi ne stiamo vivendo un altro che è iniziato nel 2008 e che finirà nel 2020. Tutti gli allineamenti di questi due pianeti dall'inizio del Novecento hanno avuto per protagoniste le due categorie dei grandi esclusi dalla scena sociale, i neri e le donne. In questo senso l'allineamento del 60 ha rappresentato proprio il culmine con la pillola anticoncezionale, la rivoluzione sessuale, i movimenti per le donne e per i neri, il discorso di Martin Luther King. E studiando questo ho notato una cosa che non avevo mai letto. Stranamente, ma forse neanche tanto stranamente, il successivo allineamento, quello che stiamo vivendo adesso, dal 2008, si apre proprio con un'immagine simbolica straordinaria. Alle primarie democratiche americane del 2008 negli Stati Uniti troviamo per la prima volta un candidato nero e una candidata donna. È come se il transito degli anni 60 fosse ricominciato proprio lì dove era terminato nel 72, con le donne e con i neri in una posizione che mai nel Novecento gli era stata riconosciuta. Il primo allineamento di cui abbiamo parlato, quello degli anni 20, ce lo ricordiamo prevalentemente per il crollo della borsa del 29. Anche questo è riconducibile a Plutone, che rappresenta il denaro, e a Urano, che rappresenta l'imprevisto e la rivoluzione. I due pianeti si scontrano con uno scossone al sistema economico basato su un valore convenzionale molto spesso non reale. Ed è il periodo caratterizzato dall'affermazione del marxismo, il socialismo radicale, quindi un periodo di grandissime rivoluzioni. Senti, e tornando al tema delle donne? Anche in questi anni si afferma moltissimo il ruolo della donna, soprattutto nella letteratura. È il periodo, per esempio, di Virginia Woolf in Inghilterra, di Simone de Beauvoir in Francia. Comunque, tornando al rinascimento di Harlem, i transiti che abbiamo descritto sono definiti in astrologia transiti duri, o addirittura disarmonici o malefici. Sono i transiti della quadratura e dell'opposizione. E durante questi transiti le energie si scontrano con effetti spesso dirompenti. Però questi stessi due pianeti considerati, Urano e Plutone, durante la prima parte degli anni 20 e soprattutto nel 24, 25 e 26 hanno formato un aspetto morbido, un trigono, nel corso del quale queste due energie si sono supportate e si sono fuse in modo più armonico. Quindi il senso di ribellione proprio d'Urano ha incontrato in modo più armonico e silenzioso le energie di Plutone e ha favorito l'affermazione dell'identità delle persone di colore non attraverso lo scontro, ma attraverso un rinascimento culturale che si è espresso nella letteratura, nella musica, insomma nel campo delle belle arti, come se ce ne fossero di brutte poi. Comunque il rinascimento di Harlem, che si sviluppa durante tutti gli anni 20, guarda caso ha il suo culmine proprio tra il 24 ed il 26, quando il trigono tra questi due pianeti diventa esatto, cioè raggiunge il suo punto più forte. Considerando questo aspetto, il prossimo rinascimento di Harlem, ovvero un nuovo trigono, lo avremo proprio negli stessi anni, nel 2024. Oggi è ancora tempo di lotta e di rivoluzione, i due pianeti sono attualmente ancora in quadrato e ne avremo ancora per un decennio. Ma in fondo poi dietro ogni rivoluzione, anche se esplosiva, c'è comunque la preparazione di un terreno fertile. È come arare la terra per creare un ambiente ospitale per le piante, per il verde del futuro. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.